Procediamo subito allora con la relazione del professor Schira sull'illuminismo e assolutismo tedesco nella storiografia italiana del secondo dopoguerra. Dopo la relazione Schira penso ci prendiamo la meritata pausa di 10 minuti e poi le altre due relazioni e poi la discussione finale. Grazie. Io credo di essere molto colpevole perché in realtà, cioè per molti motivi, prima di tutto perché temo di non aver rispettato il titolo molto, insomma, perché non sono riuscito a limitarmi alla, al tema illuminismo e assolutismo tedesco nella storiografia italiana, ma in realtà ho finito per occuparmi della storiografia italiana sul tema assolutismo e illuminismo nella misura in cui questa storiografia, a mia opinione, subì l'influenza della storiografia tedesca. Ecco, quindi il tema è un po' modificato in questo senso. Ciò naturalmente mi ha portato anche ad una scelta molto personale, faziosa proprio, del percorso di ricostruzione che ho seguito, una scelta faziosa di cui mi sono accorto nella composizione di questo rapporto e che quindi a un certo punto ho fatto mia e addirittura ho elevato a criterio di costruzione del rapporto stesso. Rapporto che peraltro nella sua stesura attuale è prevalentemente limitato alle note, nel senso che io esporrò una serie di titoli su cui farò brevissimi commenti e il testo in realtà non c'è, quindi mi scuso fin d'ora per questa straordinaria quantità di colpe di cui sono responsabile. In realtà anche il tema assolutismo illuminismo, illuminismo assolutismo è finito per risultare troppo ampio, perché in modo particolare per la nostra storiografia del secondo dopoguerra, cosa avrei potuto dire ad esempio su Venturi e sulla sua straordinaria prestazione, certo non solo italiana ma almeno europea, questa eccezionale ricostruzione delle infinite spire attraverso cui la circolazione delle idee ha portato i lumi in tutto il mondo. E anche cosa dire della precedente grande opera in cui pure Venturi con altri era coinvolto, risalente a Mattioli e alla Ricciardi, in cui attraverso la raccolta di testi di varia provenienza sono stati ricostruiti gli aspetti ideali o dottrinari dell'illuminismo dai diversi punti di vista, dalla curiosità dei viaggiatori, dei memorialisti, la modernità di pensiero dei teorici del diritto e dell'economia, il libero pensiero dei filosofi e dei moralisti e via dicendo. Così l'illuminismo è finito col uscire un po' dalla mia considerazione, anche perché forse, e qui presento subito il lato forte della faziosità che ho usato nella mia ricostruzione, forse si potrebbe dire che Venturi e tutti quelli che l'hanno seguito, compreso Diaz ad esempio, che credo nella sua produzione dedicata all'illuminismo ha eretto a sua volta un piccolo monumento a Venturi stesso, dicevo che appunto si potrebbe forse dire che l'opera di Venturi e dei suoi seguaci forse è proprio l'opera costruita meno alla tedesca che sia stata prodotta nel nostro dopoguerra. Eppure, per fare solo un esempio, proprio da Venturi viene uno dei prodotti più recenti della storiografia italiana sull'illuminismo tedesco questa volta, ed è un lavoro che è uscito nella collana del nostro istituto, cioè quello di Edoardo Tortarolo, sulla ragione, sulla sprea, coscienza storica e cultura politica nell'illuminismo berlinese. D'altra parte, per quel che riguarda questo côté più, diciamo così, storico-filosofico, comunque dedicato all'essenza dell'illuminismo tedesco, il nostro istituto ha altre volte, si è altre volte impegnato, cito solo il libro dell'87 di Nestore Pirillo, sull'uomo di mondo fra morale e ceto, Kant e le trasformazioni del moderno, e d'altra parte in un prossimo volume degli annali apparirà una documentatissima rassegna di Carla De Pascale proprio sugli studi italiani intorno al pensiero filosofico tedesco del Settecento, a partire da quelli insuperati di Carlo Antoni. Io invece, come dicevo, non vorrei occuparmi di questi aspetti, anche se non posso trascurare l'influenza che su di me, come su altri anche del gruppo, dei gruppi che lavorano in questo istituto, ha esercitato un autore come Reinhard Koselleck, il cui primo volume tradotto in italiano risale al 1972 ed è il famoso Critica e crisi, che ha forse avuto in Italia una fortuna maggiore che in Germania. Ma ora mi riferivo in particolare all'opera più filosofica, storico-filosofica di Koselleck, che sta a monte o accompagna la sua attività di editore dei Geschichtliche Grundbegriffe, da lui fondati insieme a Brunn e a Conze, e che in certo modo sostiene dal punto di vista teoretico l'impianto complessivo di storia concettuale di quest'opera monumentale, la quale opera invece stranamente non ha ancora trovato attenzione da parte degli editori italiani, come pure stranamente va segnalata, per quella che almeno mi risulta, la mancanza di traduzione e sostanzialmente anche direi di recezione dell'opera di un grande storico quale fu Werner Conze. Per Koselleck mi riferisco naturalmente alla raccolta di saggi dal titolo Vergangene Zukunft, tradotto nell'86 come Futuro passato per una semantica dei tempi storici. Ma tutto ciò, come ho detto, non mi interessa oggi, mentre mi interessa assai più di Koselleck la Prussia fra riforma e rivoluzione, 1791-1848, la cui titanica traduzione pure è stata compiuta da poco presso il mulino, senza ricevere però finora, quanto mi pare, l'attenzione riservata alle più intriganti opere precedenti, che poi non sono precedenti dal punto di vista cronologico per Koselleck. Non si tratta forse solo di pigrizia di fronte alla mole dell'opera, ma anche di diversa impostazione storiografica, se si guarda ad uno dei pochi lavori italiani su temi affini, quello di Gustavo Corni, su Stato assoluto e società agraria in Prussia, nell'età di Federico II, pure apparso nella collana delle monografie dell'Istituto. Nell'ultimo capitolo di questo volume viene infatti contestata la portata degli effetti riformistici dell'azione di Federico il Grande, a cui invece si fa risalire la colpa di una crisi molto grave, manifestatasi durante l'occupazione napoleonica. Cito: si può affermare quindi che alla fine del Settecento la Prussia non fosse in grado di reagire ai tempi nuovi e che fosse sostanzialmente sopravvissuta a se stessa, costretta nella rigidità e staticità che Federico II aveva tenacemente difeso, considerandola una premessa essenziale per il mantenimento del sistema. Non so se questa, forse troppo drastica, opinione di Corni, fondata sull'analisi dettagliata di quello che secondo lui era stato un compromesso di lunga durata fra Stato e nobiltà, sia da condividere o meno. Mi sembra però importante sottolineare che anche per lui sembra valere la centralità della figura di Federico II all'interno dell'interesse della storiografia italiana per il Settecento tedesco e anche a rovescio per quanto riguarda l'influenza esercitata in proposito dalla storiografia italiana tedesca su quella italiana. Mi riferisco specificamente a due opere che in certo modo aprono e chiudono questa problematica. Quella di Gerhard Ritter, intitolata Federico il Grande, tradotta dal Mulino nell'ormai lontano 1970, e quella di Theodor Schida, recante lo stesso titolo, tradotta da Einaudi nel 1989. Per quanto riguarda il primo, Ritter, interessa nella mia prospettiva soprattutto l'introduzione che ne fece Ernesto Sestan, che fu, come non è neanche necessario sottolineare qui, uno dei maggiori fermitra fra i due mondi storiografici, non solo per i suoi decisivi contributi alla storia tedesca del 7-800, ma anche per le introduzioni ad importanti traduzioni. La prima, delle due che incontreremo oggi, riguarda appunto il libro di Ritter, che ci viene presentato subito come lavoro di indagine storica fortemente motivato da opzioni di tipo politico. Nella linea Prussia, Germania, Europa, infatti, a Federico II viene collegato Bismarck, secondo una lettura del processo di unificazione in cui, cito, lo Stato nazionale si presenta come forma suprema di ordinamento di una società e in cui emerge la vocazione della Germania a grande potenza. Lungo tale binario si estenderebbe, sia per Federico che per Bismarck, una sorta di metafisica politica tutta incentrata sullo Stato, sempre più forte e temibile. Il lavoro di Ritter fu, a mia conoscenza, uno dei primi che riproposero in Italia, 20 anni dopo il crollo del Secondo Impero, la tematica dell'assolutismo tedesco. Il primo capitolo inizia così. Chi vorrà farsi un'idea adeguata dell'assolutismo assoluto solo in confronto al feudalesimo dell'epoca precedente? E in tal modo Ritter è riuscito a rovesciare la stessa matrice genetica del termine assolutismo, legata appunto al costituzionalismo ottocentesco, proponendo sul piano storico ma anche su quello valutativo la contrapposizione di esso col feudalesimo. Infatti, l'assolutismo, cito, ha il merito storico di avere fondato lo Stato nazionale moderno, diretto da una volontà centrale e di aver superato, anche se non certo distrutto, il feudalesimo. Non basta. Ricito, la costruzione di uno Stato veramente assoluto, organizzato senza riguardo per i diritti e le usanze tradizionali e capace di disporre dei beni e della vita di tutti i suoi sudditi soltanto in funzione delle proprie esigenze, non è stata l'opera della monarchia, bensì della democrazia moderna. E ancora, solo l'appello ad una volontà popolare permise allo Stato moderno di divenire onnipotente più che assoluto, cioè totale. Nella ricostruzione di Ritter, il posto di rilievo è ovviamente occupato da Federico. Quel che interessa sottolineare è però che l'impianto dell'opera è in realtà volto ad offrire una lettura forte ma antitotalitaria del sistema politico che aveva caratterizzato la Germania nel XVIII secolo, all'inizio della sua crescita a grande potenza. Nel lavoro di Schida, invece, Federico non è solo il pretesto, ma anche il tema vero della ricerca. Semmai con la preoccupazione di attutire le proiezioni storiche, in avanti come all'indietro, troppo ardimentose, e di relativizzare il tema della grandezza, attribuito sia alla storia degli stati che a quella delle persone. Proprio con alcune riflessioni sulla grandezza storica si conclude l'opera del grande storico tedesco. La traccia dell'assolutismo è quella che vorrei ora seguire attraverso un libretto di Ernesto Sestan dedicato all'Europa settecentesca e contenente una serie di saggi apparentemente di umile biografia sui dinasti Hohenzollern dal grande lettore a Federico il Grande, appunto. Il primo impostò la trasformazione degli antichi domini in Stato, il secondo addirittura, cito, credeva all'immortalità dello Stato. In mezzo due altri re, fissati rispettivamente sulla corona e sull'esercito e la burocrazia. Cito, di tali regnanti, buoni amministratori, padri del popolo, l'Europa paternalisticamente assolutista e filantropica di allora poteva contarne più d'uno. Questo è il commento di Sestan. Il discorso si aprirebbe ora alla discussione dei rapporti fra il sostantivo assolutismo e l'aggettivo illuminato che di solito gli si attribuisce. Un libro di Bazzoli, proprio dedicato all'assolutismo illuminato, ci consiglia cautela sull'uso del termine, intrinsecamente contraddittorio. La storiografia relativa è tuttavia immensa e ricchissima di sfumature, tanto che l'abbandoneremo subito, riducendo l'attenzione al sostantivo e cercando di insistere piuttosto sul nesso assolutismo-Stato, senza però dimenticare l'osservazione, abbastanza diffusa nella letteratura, che il termine assolutismo si differenzia da quello di despotismo proprio perché, a differenza di quest'ultimo, mira essenzialmente al bene dei sudditi ed è perciò, si potrebbe dire, intrinsecamente illuminato. Preferisco però tralasciare ancora una volta la strada dei principi e delle idee per imboccare quella degli strumenti pratici con cui i principi hanno compiuto la loro rivoluzione all'interno dell'assolutismo, definito da Emilio Bussi nel 1971 come quel sistema di organismi sovrani che è basato sulla ragione di Stato, sulle combinazioni dinastiche, sul contrasto tra le sovranazionalità dell'impero e gli egoismi degli stati territoriali, nonché su quell'equilibrio che, dalla pace di Vestfalia sin dopo la Rivoluzione francese, ha dato forma e corso agli avvenimenti del continente. Il saggio su Stato, sudditi e sovrano nei giuristi tedeschi del XVIII secolo ha rappresentato un contributo importante in questa direzione, portando a compimento, con un'interpretazione riassuntiva di peso, la minuziosa analisi svolta da Bussi nel suo diritto pubblico del 1957-59, mirante a, cito, riprodurre il più fedelmente possibile il diritto del Primo Reich secondo le leggi che gli davano fisionomia, nonché secondo il pensiero di coloro che lo avevano vissuto. Di Bussi va ricordata anche l'evoluzione storica dei tipi di Stato del 1954. Ma l'interesse dei giuristi in Italia al tema va ben oltre. Il caso più significativo mi pare sia quello del grande amministrativista, un giurista positivo insomma, Massimo Severo Giannini. Attraverso una serie di studi condotti fra il 1940 e il 1965, Giannini è passato da un interesse spiccatamente storico-giuridico in funzione dei profili storici della scienza del diritto amministrativo, il titolo di un suo famoso saggio recentemente ripubblicato, ad una considerazione storico-sociologica del fenomeno amministrativo inteso come tratto caratteristico dello Stato moderno. Nelle lezioni di diritto amministrativo del 61 prima, nel corso di diritto amministrativo più recente poi, lo Stato viene definito come complesso ordinato di fatti amministrativi, individuando, cito, la storicità dello Stato nell'elemento organizzazione amministrativa ed ammettendo che lo Stato appare inseparabile dall'amministrazione pubblica ed anzi nell'uso volgare le due nozioni tendono alla sinonimia. Da qui anche il suo interesse per la scienza dell'amministrazione, cito, essa ha origini settecentesche e si inquadra in quello straordinario sforzo che fu fatto da quella corrente di pensiero che noi oggi raccogliamo sotto il segno dell'illuminismo, di portare al livello della teoria ogni fatto umano o che interessasse l'uomo. Ma il contributo più pieno in questo settore è certamente quello offerto, sempre in campo di origine giuridica, dal mio maestro Gianfranco Miglio, che nelle origini della scienza dell'amministrazione imposta per la prima volta in Italia, in modo consapevole e riflesso, il problema di una storiografia amministrativa, che sia insieme storia delle idee, delle istituzioni e del diritto, e che abbia per oggetto la fase centrale, anche per lui settecentesca, di costruzione dello Stato moderno. Dalla pace di Vestfalia, cito, la sorte delle istituzioni e delle teorie giuridiche continentali matura essenzialmente in terra tedesca, ed è a scrittori tedeschi che bisogna rivolgere la nostra attenzione. Non occorre qui soffermarsi su Seckendorf o Wolf, a cui Miglio dedica pagine che nella loro sinteticità non hanno uguali neppure nella letteratura tedesca, mentre va sottolineata la rapida interpretazione della codificazione illuminata, frutto dell'intreccio multiplo fra giuristi e cameralisti e principi e ceti. Essa, cito, promossa dall'assolutismo nel quadro della razionalizzazione dello Stato, finì per ritorcersi contro lo stesso potere politico, quando raggiunse il suo apice nel Code Napoleon, con cui la protezione della sfera privata contro l'invadenza del potere statale ricevette la sua più significativa formulazione. Il problema della codificazione è uno dei più significativi nella prospettiva che ho scelto per questa mia rassegna. Sia rispetto all'assolutismo che rispetto all'illuminismo, la scienza e la pratica giuridica furono il terreno più fertile di mediazione e di realizzazione concreta, nonostante che proprio in quel periodo si stessero formando, non solo in Germania, quelle nuove scienze sociali o della società che avrebbero poi trionfato nel più borghese XIX secolo. È una citazione indiretta del mio libro sul cameralismo. È dunque ancora ad una storiografia a stampo prevalentemente giuridico che occorre guardare per seguire anche questo importante fenomeno. Di Bussi si è già detto, ma occorre anche ricordare il suo stato e amministrazione nel pensiero di Karl Gottlieb Schwarz, precettore di Federico Guglielmo III di Prussia, apparso nel 1966 per i tipi della Fisa, cioè per i tipi di Giuffrè, ma insomma in una colonna della Fisa, e completamente ispirato al lavoro di ricostruzione di quel problema compiuto da Konrad e dalla sua scuola. Ma è stato soprattutto nell'ambito della filosofia del diritto, disciplina in Italia assai più coltivata in senso storicistico che in Germania, che l'interesse per la codificazione illuminata ha potuto esplicarsi con opere di grande impegno. Ne citerò due principali. La prima, di carattere manualistico, ma dotata di grande acume interpretativo, è la storia della filosofia del diritto di Guido Fassò. La seconda è la storia della cultura giuridica moderna, il cui primo volume, dedicato a assolutismo e codificazione del diritto, apparve nel 1976, di Tarello naturalmente, mi è saltata. Ah no, ecco, per presentare il problema Tarello parla di un, cito, incontro che non è avvenuto in un istante né dovunque nello stesso tempo, del fenomeno istituzionale costituito dall'accentramento del potere legislativo e amministrativo con il fenomeno culturale costituito dalla raffigurazione dell'organizzazione politica come organizzazione legale. Incontro di cui le tecniche e le ideologie della codificazione sono espressione principale. Tutto ciò assume particolare rilevanza ai miei occhi di storico delle regioni politiche, poiché emerge con piena evidenza il dato storico della, è un'espressione di Tarello, portata pratica delle dottrine, questo è un punto per me metodologicamente molto importante, che resta il risultato più importante di un fenomeno per il resto abbastanza incoerente e farraginoso e destinato, come abbiamo già accennato, a completarsi e a ricevere unità solo ad opera del diritto borghese e dell'altrettanto borghese Stato di diritto ottocentesco. Tarello stesso non riesce a trovare altro, cito, fattore di unificazione e razionalizzazione che l'assolutismo monarchico, che svolge una politica di accentramento giuridico a sfavore di tutte le altre istituzioni dell'universo giuridico medievale e rinascimentale, come i ceti, le città, la chiesa, le corporazioni. Non sono solo io che uso il termine ceti, cioè... Già prima di Tarello avevano portato contributi importanti su questa materia autori come Mario A. Cattaneo, Illuminismo e legislazione Milano 66, e Giuliana D'Amelio, Illuminismo troppo dimenticata secondo me, Illuminismo e scienza del diritto in Italia, Milano 1965, la quale, in polemica con Bobbio e con Cotta, ad esempio, propone il recupero pieno della giuridicità illuministica, nonostante il forte carattere politico che quest'ultima presentava, e propone come, cito, problema di fondo della cultura giuridica illuministica, il suo rapporto, che non poteva che essere politico, aggiungerei io, con le dottrine del diritto naturale, osservando in conclusione che gli illuministi si propongono di superare la dicotomia giusnaturalistica tra scienza e pratica del diritto. Ma è soprattutto dopo Tarello che il problema della codificazione ha ricevuto attenzione in direzione progressivamente piuttosto storicistica che giuridica, nel corso delle ricerche, in parte anche celebrative, svolte su momenti centrali dell'assolutismo illuminato e in particolare della sua attività legislativa. Ciò vale per Maria Teresa e più in generale per il tema del riformismo asburgico in Italia, per usare un'espressione sintetizzante di Furio Diaz. Segnalerei in primo luogo gli atti dei tre convegni organizzati dalla Regione Lombardia nell'80, rispettivamente su economia e società, cultura e società, istituzioni e società, nell'epoca di Maria Teresa, e riuniti sotto il titolo complessivo di economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa, in tre volumi a cura di Aldo De Maddalena, Ettore Rotelli, Gennaro Barbarisi. Seguire lo svolgimento dei lavori è impossibile, va però sottolineata la compattezza dell'indagine prodotta sui molteplici versanti pratici delle riforme, dal mondo della scuola a quello del diritto e delle istituzioni giuridiche, dalla Chiesa alla finanza, alla pubblica amministrazione e alla struttura sociale, per non parlare naturalmente dei diversi aspetti della vita culturale e di quella economica. Vorrei segnalare in particolare l'importante rassegna di Ettore Rotelli in quel, in uno di questi volumi, sulla storiografia complessiva intorno alle riforme lombarde, storiografia italiana, intorno alle riforme lombarde del Settecento, recante il titolo molto indicativo Fra Stato Nazionale e Stato Moderno. Un libretto su Maria Teresa l'abbiamo pubblicato anche noi qui all'Istituto. Una seconda più recente impresa collettiva legata al bicentenario della riforma della legislazione criminale toscana, appena citata, trattata da Weiss, del 30 novembre 1986, è stata condotta da Luigi Berlinguer e la sua allieva Università di Siena, con l'organizzazione di un poderoso convegno sulla Leopoldina, criminalità e giustizia criminale nelle riforme del Settecento europeo, di cui stanno uscendo con lenta regolarità gli atti relativi alle diverse sezioni, corredati però anche di interessanti interventi monografici di rilievo. Anche qui mi pare che l'impronta della letteratura dell'impostazione germanica non sia assente nel tentativo costante di risalire dalla fattispecie criminale a quella costituzionale di fondo che detta il motivo conduttore all'opera di riforma. Ciò è poi tanto più vero se si fa riferimento alla figura protagonista della riforma toscana, quel Pietro Leopoldo, a cui il presidente del nostro istituto, Adam Wandruschka, ha dedicato anni or sono una biografia poderosa, indicandolo come personificazione esemplare del cosiddetto assolutismo illuminato ed accentuando la sua doppia personalità come meglio non si potrebbe, cito: il toscano Pietro Leopoldo non può essere capito se non si tiene presente che era nello stesso tempo arciduca d'Austria ed il futuro erede della vasta monarchia asburgica. La ricostruzione di Wandruschka è tutta giocata in questa direzione e si può ben dire che ha saputo offrire un quadro unitario e completo di quella personalità dopo gli studi di Dalpane sulla finanza toscana all'inizio del secolo XVIII e di Diaz su Francesco Maria Gianni. C'è però un capostipite della letteratura sulle riforme che non posso tralasciare di ricordare, anche se ben vivo nel nostro pensiero, nonostante esso risalga ben prima del termine del secondo dopoguerra da me scelto per confinare questa rassegna a quo. Mi riferisco all'opera in due volumi, peraltro incompiuta, di Franco Valsecchi, sull'assolutismo illuminato in Austria e in Lombardia, apparsa nel 31, cominciata a apparire nel 31. Le riforme non solo come frutto dell'illuminazione dei principi, ma come grande crisi che precede la crisi rivoluzionaria e gareggia con lei nella formazione dello Stato moderno, dice Valsecchi. Per converso, il Ducato milanese come uno dei più interessanti campi d'esperimento dell'Europa di allora. Ecco i due perni della lettura compiuta da Valsecchi, che non stona certamente rispetto alle ricostruzioni più recenti e per certi versi tanto più avvertite, quella della Klingenstein ad esempio, a cui la letteratura italiana più recente fa volentieri riferimento. E per Valsecchi questi temi si coniugano di nuovo subito con quelli grandi della formazione dello Stato, fra assolutismo e illuminismo, in un processo volto a, cito, togliere di mezzo e caste, e privilegi, e autonomie, porre di fronte come termini assoluti l'individuo e lo Stato e a realizzare la prima grande concretazione politica dello Stato moderno. Per non parlare ancora della dialettica a fine Settecento fra rivoluzione e riforme, nella lotta comune combattuta dalle monarchie contro il duro nemico del particolarismo, nelle due successive fasi dell'assolutismo empirico e di quello illuminato, su cui Valsecchi insiste molto. Con osservazioni di impressionante lucidità, quale quella che registra, nella prima fase dell'assolutismo empirico, al profondo mutamento della pratica costituzionale non è corrisposta un'adeguata evoluzione del diritto pubblico, mentre nella seconda fase, cito, con l'illuminismo lo Stato compie definitivamente la rinuncia al Medioevo, l'assolutismo riprende il suo cammino verso l'accentramento e in pochi anni compie l'opera a cui non erano bastati secoli di lotte. Conclusione, il filo rosso dell'indagine di Valsecchi diventa opportunamente il concetto direttivo, bel termine secondo me, dell'evoluzione subita dall'assolutismo sotto l'influsso delle dottrine illuministiche, cioè l'incontro fra correnti filosofiche e correnti politiche, con il risultato ancora oggi pienamente operativo sul piano storiografico che, cito, quel che ci riguarda più da vicino è il problema delle riforme come evoluzione costituzionale e giuridica, come crisi del concetto di Stato, è l'esame delle riforme del loro svolgimento, della loro portata. A questi interessi è ancora volto nel 1980, una cinquantina d'anni dopo, il bel libro di Raffaella Gherardi, dal titolo Potere e Costituzione a Vienna fra 6 e 700, il buon ordine di Luigi Ferdinando Marsili, che fu la seconda delle monografie dell'ISIG. Esso ha il merito duplice di aver anticipato al tardo 600, attraverso la figura ambigua dell'avventuroso studioso bolognese, i prodromi della grande stagione riformistica teresiana, e l'altro di avere prolungato di oltre un secolo la tradizionale visione di rafforzamento dello Stato anche in ambito imperiale, di solito limitato alla fine del 5 e primo 600. Le riforme dunque, lo Stato, gli Stati, ecco quello che a mio avviso ha più segnato la recezione della storiografia tedesca in Italia, per l'epoca moderna matura, scandita dall'intreccio fra assolutismo e illuminismo. Grazie. Grazie a Schiera. Parlando dopo la relazione di Prosperi, dicevo che sembrava un albero genealogico dell'istituto, qui siamo dentro anche proprio le discussioni dei nostri ultimi 20 anni, e questo è un panorama estremamente interessante.